stesso pubblico, ecco come ti sta. Bello anche il tuo sguardo limpido, la sua felicità. Poi non ti ricordi? Che 60 milioni di anni fa i dinosauri qui vivevano felici. Infatti quando cadde quell'oggetto dal cielo erano lì come te, di te. C'è una grande nuvola bianca, è così che morirono. E in più tu non sai niente, niente di te, niente di te. Poi l'improvviso arrivi con l'aria stravolta, la faccia distrutta, con un mezzo sorriso. Chiedi, pretendi, vorresti la verità. Va bene, parliamo di te, parliamo pure di te. Cosa per la verità? Quale verità? Se tu non pensi più a niente. Un'altra volta io e te, a parlare io e te, a parlare di niente. Perché non smetti un po' di sorridermi così? Mi fa più ridere. Bene così, pensando che sia tutto logico, comunque va bene così. Guarda che stai perdendo qualcosa, passi la lì. Poi non è vero che 60 milioni di anni fa i dinosauri erano felici, si trovavano di notte guardando il cielo. Basta non far finta. Ancora io e te, parlare di niente.